sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo giovedì 5 di febbraio, sono le 16.30 primi 48 secondi, grazie per l'ascolto e a chi ci scarica in podcast, e vi ripeto sempre l'indirizzo, versione di Oscar @radio24.it per idee di puntata e ospiti. Anche quella di oggi nasce, come capirete tra poco, esattamente da un ascoltatore che ci ha proposto il tema di cui trattiamo. Prima di arrivare a questo e ricordandovi i numeri sui quali intervenire e darci le vostre opinioni, 800 24 00 24 per intervenire in diretta e invece 349 238 6666, vi dico solo che la puntata di oggi è dedicata, è una specie di puntata non di riparazione ma complementare rispetto alle tante che abbiamo fatto sull'assenteismo pubblico, invocando tutta una serie di misure, non solo per quello che era successo la notte di Capodanno a Roma, ed è complementare perché la cosa su cui vogliamo riflettere insieme con il nostro ospite oggi è dedicata a coloro che, tra i 3.200.000 dipendenti pubblici, si trovano a pagare amaramente il costo e l'impatto di misure che a quel punto sono nate nel tempo per fronteggiare i colleghi furbi, per così dire. Quindi è una puntata complementare, perché siccome nella mia opinione bisogna occuparsi anche di chi ha ragione e finisce invece per dover pagare come se avesse torto, questo metro va seguito anche all'interno del pubblico impiego, perché vi ho sempre detto che se c'è un errore da aborrire è quello delle generalizzazioni. Io lo so che nella stragrande maggioranza del pubblico c'è una generalizzazione avversa al settore pubblico, io ce l'ho nei confronti dello Stato, non di chi fa il pubblico dipendente, lo Stato che spreca i soldi, che è organizzato male, i politici che fanno le assunzioni clientelari a tempo parziale o coi precari e poi tocca metterli giustamente in regola, ma non li hanno decisi i dipendenti pubblici questi criteri. E allora oggi la puntata è proprio dedicata alla testimonianza di un dipendente pubblico che, come sentirete nel suo racconto e come ci ha scritto, ha problemi veri, seri, li abbiamo anche verificati, e che paga il prezzo di misure che, nate per i furbi, finiscono anche per limitare pesantemente chi fa il proprio lavoro, ma è anche in condizioni di disagio fisico molto forte, come sentirete. Prima di questo, tre osservazioni brevissime. Siccome ieri ci siamo occupati della Sicilia, solidarietà questa volta a tutti gli ascoltatori siciliani, perché vorrei esprimere la loro solidarietà nell'apprendere che la Regione Sicilia non si è costituita parte civile in un procedimento contro tangenti ammesse da un dipendente, da un funzionario della Regione Sicilia nell'assessorato al turismo. E la cosa pazzesca è che non si è costituita la Regione Sicilia perché l'avvocatura distrettuale dello Stato ha motivato l'inopportunità di questa costituzione di parte civile da parte della Regione Sicilia a nome di tutti i siciliani per le tangenti incassate all'assessorato del turismo, perché scrive testualmente nella sua memoria l'avvocatura distrettuale dello Stato che le mazzette non costituiscono motivo di allarme sociale. Allora, solidarietà ai siciliani e richiesta, curiosità da parte mia, di sapere quale sarà la sanzione disciplinare assunta nei confronti dei due esimi avvocati dello Stato che sono intervenuti in questo procedimento con questa autorevolissima opinione. Non mi si dica per favore che un libero esercizio della propria valutazione nello svolgere la propria funzione giuridica a difesa dello Stato, perché se accettiamo l'idea che gli avvocati dello Stato dicono che le amministrazioni dello Stato non si devono costituire parte civile in procedimenti su mazzette incassate da funzionari, che voglio sperare insomma si consideriamo infedeli allo Stato, se beccano i soldi, e lo ammettono pure, perché questo non costituisce allarme sociale, allora facciamo a meno dello Stato, e devo dire facciamo a meno anche degli avvocati dello Stato, però. Prima, solidarietà ai siciliani. Seconda, solidarietà a una parte dei siciliani, ai cittadini di Agrigento, che hanno scoperto le 1300 sedute fantasma dei consiglieri comunali di Agrigento per darsi il gettone. 300.000 euro di gettoni in un anno intascati dai consiglieri comunali di Agrigento, motivati con riunioni a catena, a raffica del Consiglio Comunale mai avvenute. Ecco, io mi metto nei panni dei cittadini di Agrigento e mi chiedo che cosa dovremmo fare a quei consiglieri comunali, naturalmente nell'ambito di ciò che consente l'ordinamento, però stiamo parlando di un comportamento verso il quale dovremmo, secondo me, assumere sanzioni esemplari, verso i signori politici consiglieri comunali di Agrigento. Terza breve osservazione, questa è un'indignazione mia personale, sicuramente minoritaria. Comunque, solidarietà ai cittadini di Taranto, perché il GUP, giudice dell'udienza preliminare di Taranto, ha deciso ieri, in un procedimento contro l'Ilva, che l'Ilva non deve risarcire, non è chiamata quindi a risarcire la città di Taranto e i tarantini se si costituissero parte civile in quel procedimento per i danni ambientali e la salute. Perché? Perché l'Ilva è diventata di Stato e quindi l'Ilva di Stato non risponde più dei danni. Scusatemi, cos'è? Una giustizia a due piazze? I privati che non hanno realizzato quello stabilimento con i parchi minerali aperti perché l'ha realizzato lo Stato decenni prima di privatizzarlo perché non era in grado di gestirlo, i privati li abbiamo espropriati senza indennizzo e loro risponderanno di uno stabilimento non realizzato da loro, mentre siccome lo stabilimento è stato nazionalizzato senza indennizzo la società non risponde ai tarantini. Ma in che cacchio di paese viviamo, cari amici? Quindi solidarietà anche ai tarantini. E andiamo invece alla vicenda di oggi, la vicenda particolare di un dipendente pubblico da 10 anni, che ha cominciato a lavorare quando di anni ne aveva 12 e a 25, per via di una leucemia, ha dovuto intraprendere un cammino molto pesante di malattie a catena, e ciò malgrado, e per fortuna dico io, nell'abbracciarlo per quello che deve affrontare nella vita come malato colpito da parecchie patologie molto pesanti, è un dipendente pubblico, ci ha scritto, vuole raccontare la sua storia per dire come lui paga alcune delle misure assunte in questi anni per combattere i furbi. Buon pomeriggio e grazie attore per essere con noi. Buonasera, mi sentite? Eccoci qua. Scusate l'emozione, perché sono... No, non si deve emozionare. Non ho idea di quanti anni, diciamo, piango questa situazione. Non si deve emozionare, e naturalmente quello che le posso chiedere io è di spiegarla a chi è in ascolto. Lo so che è difficile, ma senza farsi vincere dall'emozione. Descriviamo... Ci vuole molto tempo, però cerco di essere... Ecco, bisogna essere un po' sintetici. Tentiamo innanzitutto di informare chi è in ascolto di quali sono i suoi mali. Beh, io ho una GVH cronica, una GVH polmonare, questa diciamo è la malattia base, poi da lì seguono vari problemi come l'osteonecrosi, problemi al cuore, problemi giustamente respiratori legati al cuore. Ho anche purtroppo da quando c'era la legge Brunetta, forse la tensione, mi è venuto anche un altro tumore in testa, che purtroppo non posso trattare chirurgicamente ma solo con la radioterapia. Per cui ho perso l'udito quasi completamente, vertigini, nausea. Ecco. Insomma, lei ha che funzione? Però vengo al lavoro perché... Ecco, lei ha che funzione, ha detto? In che amministrazione? Io sono un impiegato amministrativo, quindi mi dedico praticamente di tutto quello che mi viene dato da fare, anche se spesso non faccio quello che dovrei. Però, come vi ho scritto, sto facendo un lavoro adesso molto, diciamo, importante, per cui mi sacrifico molto molto volentieri, perché grazie al mio lavoro posso anche fare qualcosa per gli altri. Ecco, nella media, per via delle terapie e delle visite che deve sostenere, la domanda che le faccio più da tempo perché mi sono arreso, ora mi limito solo a seguire il tumore che ho in testa e cercare di sopravvivere alla GVH. Leggete, basta leggerlo, digitare su Google GVH di polmonare e capite che cos'è. È un rigetto, in sostanza è un rigetto. E perché si è arreso? Beh, no, non che mi sono arreso nel senso che non vado più a curarmi certe patologie, tipo per esempio l'osteonecrosi va seguita con la camera iperbarica, ma capite che se ogni volta che mi assento mi decurtano dei soldi, perché la camera iperbarica non è un trattamento salvavita. E la legge Brunetta prevede solo in pochissimi casi il non decurtamento. Per cui uno come me, malato cronico, che va a fare esami del sangue, che va dallo psicologo, che va dal neurologo, che va dall'urologo, che sono tutte malattie che ho, ogni volta deve o pagare o prendere ferie, o comunque, da qua si dice salvati, cioè ti arrangi come puoi. Perché la legge Brunetta, cioè quella che ha introdotto la parificazione, anzi rispetto ad alcuni contratti privati che ancora consentono in realtà il primo giorno di malattia, invece nel pubblico impiego adesso la malattia si paga, no? Naturalmente. Allora, però non fa alcuna distinzione c'è una lista comprensiva delle patologie comprese le sue per le quali c'è un'eccezione a questo principio? No, vi spiego, tiene conto solo delle situazioni limite, nel senso i ricoveri, i giorni in cui uno va in degli hospital che adesso ormai non lo fanno più, poi i ricoveri, allora aspetti che mi sfugge, adesso sono emozionato, non mi viene, sono tre, se voi leggete la legge sono solo tre i casi in cui uno non viene derubato. E quindi capite che uno che comunque ha una malattia, più di una malattia cronica, non è che ogni volta è in terapia salvavita. E tra l'altro io faccio la terapia salvavita per questo GVH cronica a vita, come un trapiantato di rene, per capirci. I farmaci, io faccio la zatioprina più il cortisone a vita. Bene, in certi casi non vengono nemmeno considerati salvavita perché li faccio ogni giorno per via orale. Quindi viene considerato quello che va a fare la terapia salvavita quando fa la chemio, per dire, no, va in ospedale e fa la chemio. La legge 104 che esiste, la legge 104 non le consente? No. Guardate, io ho scritto al Presidente della Repubblica, c'è stata una causa, per fortuna, discorso causa, abbiamo risolto, ho trovato una persona, insomma, abbiamo risolto per fortuna, ci siamo capiti. Però il problema è che chi sta male non lo dà a vedere e non viene creduto. In Italia invece chi non ha niente finge e magari viene creduto più di me. Io sono abituato a lottare, quindi non lo do a vedere. Io posso crepare come esco dalla strada, ma non te lo do a vedere. È una questione di è una questione di modo di vivere. Io vivo così, io non ho mai pianto, non do a vedere niente, non faccio soffrire chi mi sta vicino. Per cui a volte vedi uno in piedi e dici quello sta bene, vedi uno in carrozzina, quello sta male. Quello in carrozzina non ha nessuna, scusatemi se mi permetto di fare questa distinzione, non ha nessuna, diciamo, complicazione del sangue, ha solo purtroppo quel problema lì. Mentre uno come me ne ha 10.000 di problemi. Credetemi, non voglio fare per carità una distinzione, perché non mi permetto. No, ma si figuri. Io le leggo una frase della lettera molto lunga e amarissima, e devo dire molto bella nella sua amarezza, perché è ovvio che anch'io mi sento molto in difficoltà. Ripeto, a chi è in ascolto e dubita, abbiamo fatto tutti gli accertamenti del caso, le lettere alla Presidenza della Repubblica sono vere, è tutto verissimo quello di cui ci sta parlando Tora. E nella sua lettera a un certo punto lei scrive: al lavoro faccio quello che molti non vogliono fare e lo faccio con impegno. Non dovrei per contratto, anzi spesso creo problemi perché nonostante le assenze per 104 e malattia lavoro troppo e le colleghe non ce la fanno a seguirmi, però io alle 7.30 sono lì a lavorare. Altre persone che stanno bene e sono sponsorizzate, fa dei nomi dei sindacati eccetera eccetera, se va bene arrivano alle 9 e dopo ore al bar spesso spariscono a fare la spesa e prendono anche 500 euro in più di me. Questo in certi casi succede, sì. Le chiedo, ripeto, non siamo tutti nella stessa, no, ma sono infatti casi in cui succede questo qua. Sono casi, io, no. Anche lei non sta generalizzando, dice alcuni, altro. Sono persone che sacrificano tanto, la propria vita e si dedicano col meglio che possono fare all'interno delle norme magari che stabiliscono i dirigenti, non sempre proprio in prima fila per dare il buon esempio, e tentano di fare al meglio. Ma quello che le chiedo è: sul posto di lavoro, in questi anni così difficili, in cui ha dovuto affrontare il fatto che per lei, non potendo sopportare di scendere sotto una certa cifra di trattenute e non essendo altrimenti possibile per lei avvalersi dei giorni minimi di malattia, altrimenti dovrebbe pagare, e neanche la legge 104 riesce a coprire tutto quello che dovrebbe fare per curarsi. Ma in queste condizioni, con i suoi colleghi, a volte è capitato di discuterne e che qualcuno l'abbia sorpresa dicendo mi sento male rispetto a come sei trattato anche per colpa mia? Allora, io sono una persona particolare, nel senso che parlo in faccia, dico quello che penso e non sto lì, non sono una di quelle persone che molto simpatiche, vi spiego, nel senso che non sto lì a perdere tempo, a cazzeggiare, diciamo così. Sono una persona diretta, poi purtroppo per le patologie che ho non posso nemmeno fare quello che fanno gli altri. Può sembrarvi una fesseria, ma se io sto in un corridoio e c'è gente che fuma, sono costretto a scappare. Ma questo è solo un esempio, ma anche solamente a volte andare al bar. Per cui io diciamo che mi tiro indietro un po' di antipatia, ma perché non sanno chi sono, semplicemente. E poi di questi tempi è facile che uno venga subito... Basta solo che uno non sorrida, è già quello un pessimista. Quello... Ah no, per carità, oggi bisogna avere la religione dell'ottimismo a tutti i costi, altrimenti sei un gufo. E le faccio un'altra domanda. I sindacati, per lei, voglio dire, in una condizione conclamata di particolare difficoltà, non hanno ritenuto di fare qualche cosa di straordinario, o se lo hanno fatto non è avuto successo? Che tipo di sensibilità hanno mostrato nei suoi confronti? Io mi sono cancellato dai sindacati e sono arrivato alla conclusione che non fanno niente. È una situazione troppo complicata e in Italia le situazioni complicate è meglio lasciarle stare. È più facile dire cose più convenienti che magari fanno più notizia o notizia diversamente. E poi i sindacati a quel punto dovrebbero, come dire, io parlo a livello locale, sì. io avevo una situazione di un sindacalista dove era, in sostanza molti problemi li ha avuti proprio a causa di questo qua, perché non faceva in segreteria, purtroppo molto spesso non mi hanno per niente aiutato, anzi mi hanno penalizzato tantissimo. Ma perché lei rappresentava addirittura un problema? Perché la vita è questa oggi, bisogna avere, se la Juventus perde sono tutti tristi, no? Cioè, viviamo di cazzate, quando ci sono cose serie giriamo tutti le spalle, perché finché non tocca casa nostra, purtroppo è questa la verità, alla gente non sbatte niente di uno che sia male, okay. Poi a volte faccio presente, guarda che comunque ci sono 2000 casi all'anno, non è che... Si tratti solo, proprio, ecco, esatto, di un fenomeno cioè, che stiamo parlando di... Allora, purtroppo la vita, l'italiano poi è il cazzeggio, è il premio Nobel del cazzeggio. Adesso Tore, capisco la tua amarezza, però io ho ricevuto la lettera e verificato quello che posso fare, come vedi non stiamo facendo cazzeggio, sto tentando di far riflettere tutti quelli che sono in ascolto che siccome esistono migliaia di casi come il tuo, e per quei migliaia di casi noi dobbiamo immaginare un mondo per cui esistono le regole che consentano di lavorare a queste persone e che consentano di curarsi. Quello che non possiamo accettare, l'idea è di generalizzare la condanna a chi la merita, cioè i furbi, e contemporaneamente per questo adottare regole che non consentono a chi come Toro ha dei guai certificati serissimi di poter con dignità vivere una vita di lavoro, volendo lavorare, potendo lavorare, e gli chiediamo invece di smettere alcune cure necessarie perché altrimenti tratteniamo i soldi. Questa è per me una roba incredibile, e la storia di Tore che stiamo raccontando, adesso torniamo tra 60 secondi dopo l'informazione stradale, è una maniera per riflettere, non per compatire Tore, è una maniera per riflettere sul fatto che fino a che esistono cose così, vuol dire che le regole che ci siamo dati non funzionano, cari amici in ascolto, non funzionano, perché se crediamo che lo Stato, le norme pubbliche servano davvero a qualche cosa, devono servire innanzitutto ai più deboli, o no? Ed è invece esattamente la condizione, come spiega la vicenda di Tore, di alcune migliaia di pubblici dipendenti nelle sue reali certificatissime condizioni. Ebbene, è proprio per loro che noi non abbiamo costruito un mondo che paghiamo con le nostre tasse, che consenta loro di vivere in maniera dignitosa e anche di affrontare i mali che hanno. Sentita la sensazione di solitudine e di amarezza che c'è nelle sue parole. motivata dal fatto che evidentemente i comportamenti collettivi e individuali di chi sta intorno a lui lo hanno rafforzato in queste opinioni. Io, pur non avendoci a che fare, mi sento un pezzo di questa colpa collettiva sulle spalle. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta a 16:51, 34 secondi. Partiamo dalla segnalazione del nostro ascoltatore che ci ha descritto le sue patologie. Con noi collegato, Tore, a 6 patologie, la 104, la legge 104 ne beneficia. La più grave delle patologie è la GVHD polmonare cronica, ed altre sono comunque gravi. E nelle opinioni che arrivano dagli SMS c'è la geografia differenziata dell'Italia pubblica, perché per esempio c'è la segnalazione che viene da Annalisa dell'ufficio delle entrate di Bergamo, una dipendente di malattia da anni ed è regolarmente pagata, grazie Annalisa per segnalarcelo. C'è Francesca che ci parla invece dipendente del comune di Torino, che in presenza di gravi motivi invalidanti sono previsti 30 giorni aggiuntivi di permesso l'anno, non so se è valido per tutti gli enti pubblici, ma da noi sì. C'è un segretario comunale, Antonio, che ci descrive: sono segretario comunale, avessi un collega con le patologie del signore mi assumerei io la responsabilità di autorizzargli tutti i permessi necessari, anche rischiando la Corte dei Conti, perché siamo in presenza di cose certificate. Grazie ad Antonio. Sentiamo alcune opinioni invece telefoniche. Cominciamo con Assunta da Roma. Prego, Assunta. E dunque, io ho ben poco da aggiungere purtroppo a quello che l'ascoltatore ha già detto. Io sono stata per molti anni un prima funzionario pubblico, poi dirigente pubblico nell'amministrazione statale, e quindi ho visto sfilare davanti ai miei occhi, mi occupavo anche di personale, e ho visto sfilare una serie infinita di trucchi, come vogliamo chiamarli, da parte dei miei colleghi, poi appunto dei miei dipendenti, pur di giustificare con certificati chiaramente falsi giorni di malattia che invece venivano utilizzate per andare dal parrucchiere, letteralmente, e posso assicurare, connivenza naturalmente dei medici curanti, i quali però bisogna anche aggiungere in alcuni casi vengono messi, come dire, un po' con le spalle al muro, nel senso che il dipendente infedele approfitta del rapporto di amicizia, di conoscenza, certo, per strappare il certificato compiacente. Il capitolo delle visite fiscali è vergognoso, perché è una presa in giro assoluta, che tra l'altro costa alla comunità una cifra notevole. Io stessa ho ricevuto delle visite fiscali, le posso assicurare che nelle rare occasioni in cui il medico fiscale effettivamente si è presentato a casa mia, è rimasto sulla soglia della porta, letteralmente, chiedendomi quanti giorni. Non mi ha neanche guardato. Guarda, in faccia, quindi, insomma, era per finta. Non ha neanche verificato la mia identità. La cosa pazzesca, Assunta, è che per tutto questo poi alla fine ci sono anche i casi come quelli conclamati che finiscono per pagare il conto. Grazie per averci chiamato, per averci descritto poi la faccia che in realtà conosciamo bene delle inefficienze pubbliche, quelle che spingono tanti cittadini a dire sono comunque dei privilegiati. Sentiamo Renzo da Padova, prego Renzo. Io dicevo che ci sono i permessi non retribuiti, sono 36 ore, ci sono le 36 ore della 104, ma ci sono anche la possibilità, se il dirigente e il dipendente non lo lasciano fare dello straordinario, di prendere del riposo compensativo per farsi liquidare. Quindi un riposo compensativo se il datore di lavoro permette di fare lo straordinario. E ti è capitato, Tore, è possibile questa soluzione? Ma lettera spedita ieri dove parla di questo, infatti adesso cercherò, però dovete capire che uno che sta male, stare 10 ore per poi avere un giorno libero, diventa un massacro sul massacro. Io ci provo, ci provi. Cioè, alle 7:30 arrivo qua, me ne vado alle 17:30, quando gli altri che stanno bene se ne vanno alle 2:30, io invece devo stare qua perché poi domani certo, devo... per avere il giorno per poi poterti curare. È una questione psicologica. No, ma capisco perfettamente, era solo per vedere se questa era una ipotesi aggiuntiva. Claudio da Roma, prego Claudio. Non c'è, è caduta la linea. Pronto? Sì, è caduta la linea di Claudio. Nelle tue lettere ufficiali, le risposte che ti sono venute dal capo dello Stato e così via, di che tipo sono state? Una l'avete letta, quella del consigliere sì. Mazzini, ed è stata l'unica risposta. Allora, dal 2008 avrò spedito forse 200 lettere, mail, raccomandate, trasmissioni, radio, tutto. Potrei farvi un elenco ben dettagliato da report. Mi manderai tre Maurizio Costanzo. No, ma figurati, non è mica per segnalare. Ho scritto anche al Papa. Ma il Papa, sai, con le leggi italiane, la pubblica amministrazione italiana può fare abbastanza poco. Comunque, io ti ringrazio per aver accettato di rendere questa testimonianza. Spero di aver fatto riflettere chi è a casa. Non generalizziamo, bisogna pensare anche a chi ha problemi seri, che mettiamo nei guai aggiuntivi rispetto alla sua voglia di lavorare. Continuate con Radio 24, appuntamento come a domani.